Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, segnali di miglioramento finalmente anche sul lavoro nell'area euro. A menzionare la Banca Centrale Europea nel suo ultimo bollettino mensile. Sentiamo. Il livello massimo è stato raggiunto, ora la situazione può solo migliorare. Parla di lavoro il bollettino BCE, mettendo nero su bianco che le informazioni dell'area euro confermano che la moderata ripresa economica prosegue, mentre l'elevata disoccupazione mostra i primi miglioramenti. Secondo Francoforte, in prospettiva la domanda interna dovrebbe crescere, anche grazie alla politica monetaria accomodante, ai miglioramenti delle condizioni di finanziamento, che arrivano fino all'economia reale, e ai progressi sul fronte del risanamento dei conti pubblici e delle riforme strutturali. E su questo l'Eurotower richiama ancora una volta a non vanificare i risultati già ottenuti. A distanza di una settimana dalla conferenza stampa in cui il governatore Draghi ha ripetuto per 4 volte la possibilità di ricorrere a strumenti non convenzionali per affrontare un lungo periodo di bassa inflazione, la BCE ribadisce l'impegno assunto all'unanimità. Detto questo, Francoforte sottolinea che i redditi reali stanno beneficiando dell'andamento moderato dei prezzi, soprattutto di quelli energetici. Ma tornando al capitolo lavoro, la disoccupazione resta elevata, elevata anche la capacità produttiva inutilizzata e ancora imponenti gli aggiustamenti di bilancio necessari nei settori pubblico e privato. Tutto questo continuerà a gravare sulla ripresa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infatti tra i molti commenti alla notizia, al bollettino BCE, vi segnalo quello del leader della CGIL Susanna Camusso, che dice: mi pare assolutamente evidente che la tendenza del nostro paese continua a essere quella dell'incremento della disoccupazione, sia di chi esce dal mercato del lavoro che, soprattutto per intensità e dimensione, quella dei giovani. Sono per l'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea. Sarebbe il massimo grado di democrazia a cui potremmo giungere. Così questa mattina l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenendo davanti agli studenti parigini a Sciences Po a Parigi nel terzo appuntamento del suo ciclo di lezioni sull'Europa. E ancora, con un punteggio di -2, l'Italia si colloca nella parte bassa del primo quadro di valutazione dei trasporti dell'Unione Europea, pubblicato oggi dalla Commissione, che vede il miglior risultato a 11 punti positivi, il peggiore a -6. In testa ci sono Olanda, Germania, Svezia, Regno Unito. Ma sentiamo il punto con Beda Romano. È un quadro per molti versi deludente quello tratteggiato oggi dalla Commissione europea sulla situazione dei trasporti in Italia. In un rapporto, il primo del suo genere, l'esecutivo comunitario mette l'accento sull'elevato numero di infrazioni in questo campo e sul basso livello di trasposizione delle direttive europee nella legislazione nazionale. Ancor più grave è il ruolo preponderante del trasporto su strada di persone e merci, ben oltre il 75% del totale, rispetto a una Germania dove la quota è ben inferiore a questa percentuale. L'Italia è nel gruppo di coda tra i 28 paesi dell'Unione. Lo studio comunitario considera varie categorie, tra le quali l'impatto ambientale, l'innovazione e la ricerca, la logistica, la sicurezza. Nelle intenzioni della Commissione, il rapporto deve servire a migliorare le infrastrutture nazionali anche per rafforzare l'integrazione del mercato unico. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E da Bruxelles a Strasburgo, dove arriva lo stop al diritto di voto. L'Assemblea del Parlamento del Consiglio d'Europa sanziona così la delegazione russa per le azioni di Mosca in Ucraina. L'Assemblea ha sospeso fino a fine 2014 diversi diritti. Oltre a non poter più votare, i russi perdono anche quello a prendere parte a tutti gli organi di decisione dell'Assemblea e a partecipare alle missioni di osservazione fatte nei Paesi membri del Consiglio d'Europa per monitorare le elezioni. Con questo è tutto, la linea allo sport. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.